ascoltando nel silenzio. Il suo amore che mi salverà. Pari centro dei sensi miei. Fantasia che brucia lenta dentro noi. Più mi perdo e più mi ritrovo vicino a te. Ci sarò.